Salva Danaio di Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani a questa nuova puntata di Salva Danaio, speciale estate. Oggi al centro della nostra trasmissione un tema molto caro ai nostri ascoltatori: la casa, i passi giusti per un acquisto. A giudicare dal numero delle compravendite che si svolgono nel nostro paese, sono circa 600.000, adesso siamo un po' lontani dai picchi del momento d'oro del mercato immobiliare. Sembra che anche con la crisi del credito degli ultimi anni sia un settore dove tutto fila liscio come l'olio, dove l'incontro fra domanda e offerta è preciso e coordinato. Invece dietro ad ogni singola compravendita si celano incognite, problemi, questioni tecniche e burocratiche, oltre che naturalmente tutte le aspettative e le implicazioni emotive che questo passo porta con sé. Oggi, nel caso in cui siate in procinto di vendere o acquistare la vostra casa, vi proponiamo il vademecum dei passi fondamentali da fare, soprattutto quelli da non sbagliare, dalla scelta della casa, alla firma del compromesso, fino alla stipula del rogito davanti al notaio. Con noi stamattina l'avvocato Augusto Cirla, segretario generale di Assocond. Avvocato, bentornato. Buongiorno, buongiorno. È autore, tra l'altro, oltre che di tutta una serie di pubblicazioni per il Sole 24 Ore, esperto delle questioni condominiali e quant'altro, è anche autore della guida uscita qualche tempo fa con il Sole 24 Ore, guida all'acquisto e alla vendita. Prima di acquistare una casa bisogna, come dire, trovarsi pronti con tutte le novità legislative che hanno riguardato il periodo immediatamente precedente la scelta dell'abitazione dei nostri sogni. Certo, certo, certo. Bisogna stare attenti alla legge, perché non basta così vedere la casa dei sogni, comprarla, trattare, via. Dobbiamo vedere quanto ci impone il nostro legislatore con attenzione, prima tra tutti appunto la certificazione energetica, cosa deve essere riportato negli atti preliminari, dati catastali e quant'altro. Insomma, una serie di normative che man mano vengono emanate proprio per garantire le parti del contratto, sia il venditore che l'acquirente. Insomma, dobbiamo stare molto attenti. Anche come vengono formati il contenuto degli atti. Qui interviene prima di tutto la figura del mediatore. Il mediatore non deve sponsorizzare l'uno o l'altra parte, deve essere imparziale, deve dare notizie all'uno, notizie all'altra. La sua percezione è che la compravendita della casa sia un processo che in genere viene fatto con grande attenzione o qualche volta anche con un po', non dico di trascuratezza, ma di leggerezza? C'è, secondo la sua esperienza, un tempo giusto entro il quale questo processo si dovrebbe concludere? Non bisogna avere fretta, non bisogna avere assolutamente fretta. Primo, perché il mercato offre abbastanza tempo alle parti per valutare qual è la miglior vendita da fare o qual è il miglior acquisto da fare. Minimo deve passare proprio per la fase di trattativa per arrivare al preliminare, il cosiddetto contratto preliminare, ed è chiamato anche volgarmente il compromesso, no? Minimo ci vuole 2-3 mesi di valutazione. Poi dopo il rogito vedremo. Infatti, allora, scelta ponderata dunque a seconda delle proprie capacità economiche, perché anche questo poi è un aspetto che dobbiamo tenere in grande considerazione. Non è detto che solamente un passo complicato sia quello della scelta dell'immobile, dell'edificio giusto, della zona, della via dove abitare, ma qualche volta ci dimentichiamo di fare i conti con le nostre capacità economiche per sostenere un'impresa di questo tipo. Allora, andiamo al primo capitolo, leggiamo insieme la guida, avvocato Cirla. Come prepararsi al contratto preliminare, che lei dice volgarmente quello che noi conosciamo con il nome di compromesso per l'acquisto della casa. Prima di tutto, insomma, visita accurata all'immobile, non aver paura di fare delle domande a chi la abita, ma anche all'intermediario dell'operazione. Quanti sopralluoghi, quante volte dobbiamo disturbare la persona che abita la casa che ci piace? Ah, non c'è limite, non c'è ah, limite. No? Assolutamente. Perché è importante il sopralluogo nella casa? Per vedere i difetti, sostanzialmente, certamente anche i pregi, però i pregi si è sempre in tempo poi a scoprirli. Questo naturalmente vale per una casa usata, già abitata, ma non è detto che non debbano valere queste regole anche per una casa completamente nuova. Perché... Anzi, bisogna prestare molta più attenzione alle case in costruzione. Notiamo nella maggior parte dei casi, ad esempio, che nella fase preliminare, quando si firmano poi le carte, il costruttore si riserva spostamenti di pareti, spostamenti addirittura delle parti comuni che cambiano nell'immobile. Quindi magari vediamo un'unità immobiliare con il corridoio oppure con le scale che salgono in un determinato modo, ci facciamo un'idea di come sistemarla e poi dopo il costruttore ci cambia in corsa la piantina dell'immobile. E ci dice: ma guarda che nel contratto preliminare c'era scritto, ma noi forse non abbiamo individuato questa parte. Quindi, che cosa deve contenere? Andiamo ad un atto di compravendita regolare, una casa già usata, insomma una delle compravendite forse più diffuse ancora sul nostro territorio, anche se il nuovo sta avendo il sopravvento soprattutto in molte periferie delle città. Però insomma, quali nozioni, quali concetti deve contenere un contratto preliminare corretto, scritto allora, regolarmente? Il contratto preliminare, facciamo un passo indietro, addirittura dall'offerta che deve essere fatta dall'acquirente. Attenzione, perché l'offerta, una volta che viene accettata dal venditore, poi addirittura potrebbe avere il contenuto stesso del contratto preliminare. Quindi formuliamo un'offerta già con tutti gli elementi necessari per andare a individuare l'immobile che si vuole acquistare. Quali sono le clausole importanti? A parte ovviamente i dati anagrafici delle parti ben specificati, i codici fiscali e quant'altro, e questo va benissimo. Una recente normativa ad esempio impone, addirittura a pena di nullità dell'atto, di inserire nell'offerta e comunque sicuramente nel rogito, ma è bene quindi che venga fatto già addirittura nel preliminare, i dati catastali dell'immobile, su quel famoso decreto che doveva portare un po' a galla le case fantasma, no? Quindi dice: indicami esattamente i dati catastali in modo che sia poi individuabile, quindi il notaio sia molto più facilitato a stipulare. Io dico e suggerisco: questi dati catastali mettiamoli già a partire dall'offerta, riportiamoli poi nel preliminare e poi obbligatoriamente rogito. Si accennava prima alla certificazione. Fa sempre, avvocato Cirla, mi scusi, il contratto preliminare? Non è obbligatorio. Ah, ecco, infatti, perché onestamente nella mia compravendita non mi ricordo di averlo fatto. Non è obbligatorio perché le parti, partiamo dall'idea della stretta di mano, se vogliamo, no? Che ovviamente non consiglio a nessuno, non consiglio, potrebbero direttamente mettersi d'accordo, andare dal notaio, cedere l'immobile e l'altro acquistarlo. Versamento dei soldi, stipula del rogito, il notaio dà atto del saldo avvenuto, la consegna dell'immobile, quindi anche senza contratto preliminare o offerta, benissimo, si potrebbe vendere l'immobile. Sinceramente mi è capitato pochissime volte, proprio perché, come dicevamo prima, in via preventiva non ci si è messi in qualche maniera d'accordo, cioè fissate le basi almeno della esattamente delle condizioni economiche della trattativa, specchio del rogito, no? Salvo qualche clausola che poi ci mette dentro il notaio per la vendita e quant'altro, però è più formale, più amministrativa, ma il vero contenuto del preliminare, poi le condizioni della vendita sono contenute lì nel preliminare. E quali sono le clausole più importanti? Ad esempio, nel preliminare deve essere previsto rigorosamente che l'immobile viene venduto libero a rogito, ma non tanto di persone, ci mancherebbe altro, nel senso che deve essere stabilito se è occupato o non è occupato, via dicendo, ma soprattutto liberi da pegni, pegni, ipoteche, procedure pregiudiziali che ci sono sull'immobile. Ad esempio, noi potremmo comprare un immobile senza sapere che sullo stesso grava una procedura esecutiva, che ne so, magari per un creditore del venditore che ha accampato diritti sull'immobile stesso e lo ha bloccato. Chiaro che il notaio è il primo a doversene accorgere, però nel momento stesso che questa clausola, benché elementare, benché evidente, non viene riportata nel preliminare, potrei trovare veramente dei problemi in sede di rogito. No, potrei trovare il venditore che dice: ah no, ma io non era previsto nel preliminare, sull'immobile grava una ipoteca che tu te la tieni, te la porti avanti, e allora in sede di rogito cosa succede? Il notaio deve trattenere la parte di prezzo, una serie di problematiche che è meglio evitare. Il contratto preliminare, avvocato Cirla, o compromesso, così come volgarmente detto, va necessariamente firmato davanti ad un notaio, ed è una scrittura privata tra le parti? No, è una scrittura privata tra le parti, però attenzione, nel momento stesso che innanzitutto va registrato, nel momento stesso che interviene un mediatore, il mediatore ha l'obbligo di registrarlo, è cosa buona e giusta. Non è obbligatorio farlo davanti a notaio, salvo che, come poc'anzi dicevamo, ad esempio per l'acquisto degli immobili in costruzione. allora ad evitare che fatto il preliminare poi il venditore non ci sia più, se si vuole una garanzia il preliminare viene trascritto nei registri immobiliari, allora in quel caso deve essere fatto con scrittura privata autenticata. Cosa vuol dire? Che bisogna andare da un notaio che o predispone lui il preliminare oppure gli viene consegnato su suggerimento magari del professionista incaricato dalle parti, però in sua presenza vengono apposte le firme in calce, lui certifica che effettivamente la firma del venditore è autentica e la firma dell'acquirente altrettanto, e poi trascrive il contratto preliminare. Questo cosa vuol dire? Che se ad esempio troviamo un venditore furbo, passatemi il termine, che vende due volte l'immobile, fa un preliminare con Tizio e poi fa un preliminare dopo con Caio, il primo che ha trascritto preliminare vale acquista diritto sull'acquisto, praticamente la precedenza sull'acquisto, vorrei ben vedere insomma, perché altrimenti la trascrizione è sua. Lo vende. Ci rimane un minuto di tempo prima di andare alla prima pausa, avvocato Cirla, quanti accordi rischiano di saltare in fase preliminare e soprattutto per quali ragioni, tra le più diffuse almeno quelle che le sono capitate di più secondo la sua esperienza? Devo dire che negli ultimi tempi i casi sono molto più frequenti. Ah. I casi sono molto più frequenti, ma non vorrei portare sfortuna, però spesso... Forse perché si va in banca e si ha la sorpresa di non riuscire ad ottenere il mutuo e quindi lo si scopre tardi. E allora effettivamente stiamo attenti, perché vanno accertate prima queste condizioni, altrimenti si rischia di pagare, di perdere dei soldi, insomma, la famosa caparra firmatoria che si perde. No? Ma poi è capitato proprio un caso a me recentemente di giovani promessi sposi che in sede fatto preliminare poi sono mollati, hanno deciso di non sposarsi più. Eccolo no, lì. Sembra un caso ridicolo, però capita. Capita parecchie volte che ci sono case acquistate, prendiamo, facciamo e poi dopo il contratto preliminare si risolve. Non è detto che debba intervenire solo una lite fra possibile acquirente e possibile compratore, ma le motivazioni anche per cui una trattativa salta possono essere molti fattori esterni. Eccoci ritrovati a questa puntata di Salvadanaio speciale estate con l'avvocato Augusto Cirla, segretario generale di Assocond, l'Associazione Nazionale dei Condomini. Stiamo presentandovi la guida all'acquisto e alla vendita della casa, che è intanto una pubblicazione edita dal Sole 24 Ore di qualche tempo fa, ma naturalmente questo è il pretesto per darvi, e anche in estate non ci fa male, riepilogare un po' la situazione, il vademecum dei passi fondamentali da fare per arrivare ad un acquisto completamente consapevole della casa dei nostri sogni, della scelta dell'abitazione, la firma del compromesso o contratto preliminare fino alla stipula del rogito davanti al notaio che ci fa diventare titolari al 100% della nostra abitazione. Ed eravamo rimasti proprio alle considerazioni sul cosiddetto contratto preliminare, tutte le informazioni che vi vanno inserite, dove si firma appunto e soprattutto quando un contratto preliminare rischia di saltare, se ci sono dei furbi che possono essere sia i venditori che magari non mettono sul mercato un immobile a posto e ce ne accorgiamo dopo, avvocato Cirla, ma anche perché magari possono venir meno anche dei requisiti fondamentali dell'acquirente. Per esempio, una volta che abbiamo firmato il preliminare inavvertitamente, ci chiama la banca e ci dice: guarda, il mutuo che mi hai chiesto io non te lo posso dare. E lì che cosa si fa? Ecco l'attenzione che va posta sul termine per il rogito. Quando firmiamo un contratto preliminare normalmente si dice si versa il prezzo, si versa la caparra, e poi mi soffermo un attimo sulla caparra perché è importante, e si stabilisce il termine entro il quale verrà poi stipulato il rogito. Qui bisogna fare tremendamente attenzione perché soprattutto l'acquirente deve essere certo che entro quella data determinata deve avere poi i soldi per poter acquistare. Il termine, attenzione, perché se noi indichiamo nel contratto preliminare, ad esempio, il rogito viene fatto entro la data del e basta, il termine è cosiddetto ordinatorio, quindi non è può andarsi oltre sostanzialmente, ovviamente portando delle motivazioni. E così nel caso in cui ad esempio non faccio a tempo ad avere l'erogazione del mutuo, se il mio termine è indicato in modo ordinatorio come ho detto prima, allora ecco che l'acquirente ha possibilità anche di andare oltre, ma spesso il venditore proprio per tutelarsi indica questo termine come perentorio come termine essenziale, allora veramente sono problemi, perché nel momento stesso che scade il termine essenziale il venditore può addirittura chiedere la risoluzione del contratto. Se conviene, ovviamente, perché è chiaro che anche se il venditore ha venduto, ritiene di aver venduto a un buon prezzo, ecco che magari chiude un occhio e riesce a superare questo termine. Ma se invece è rigido, ad esempio perché magari a sua volta gli servono i soldi per acquistare l'altra casa, allora ahimè scattano i risarcimenti dei danni. Primo fra tutti, ad esempio, l'acquirente perde la caparra. L'acconto che viene versato all'inizio unitamente ad una quota che proprio viene specificata e qualificata come caparra confirmatoria. Come funziona la caparra confirmatoria? Allora, chi versa la caparra, se è inadempiente, sostanzialmente la perde. Se invece il problema fa capo al venditore? Se fa capo al venditore, il venditore che recede dal contratto, sostanzialmente risolve il contratto, deve restituire il doppio della caparra. Il doppio della caparra. Quindi, insomma, è una sanzione importante che va messa nel contratto preliminare. Non mettiamo però cifre esorbitanti come caparra, perché non esiste una normativa che stabilisce qual è la percentuale rispetto al valore dell'immobile che va fornita. No, è lasciata alla volontà delle parti, quindi può essere anche simbolica, purché io direi una via di mezzo, normalmente è un 10% del prezzo che si pattuisce, in modo che da una parte un deterrente tutela l'acquirente, perché insomma il venditore se non adempie poi restituisce il doppio. E quindi è una bella notevole, e per l'acquirente è un sacrificio sì, ma non troppo, perché se effettivamente gli capita un qualche inconveniente che non riesce poi a stipulare il contratto definitivo, ecco che insomma perdere soldi nel momento dell'acquisto della casa poi è sempre problematico, perché normalmente quando si arriva all'acquisto soprattutto della prima casa, non dico che si rompe il salvadanaio di coccio, però quasi, insomma, si calcola veramente, si strappa via, si taglia il materasso comunque. Eccolo, ecco, per fare un altro tipo di esempio. Quindi, insomma, avvocato Cirla, l'intermediario, l'agente immobiliare, qualora sia intervenuto appunto nella compravendita, è la persona che ha fatto incontrare domanda e offerta di questa trattativa, che ruolo ha nella stipula del contratto preliminare? È importantissimo, importantissimo, perché è lui innanzitutto che nella sua suo dovere di imparzialità deve indicare alle parti quali siano le clausole migliori da mettere, nel senso che alcune devono tutelare l'acquirente, alcune devono tutelare il venditore, ma è soprattutto lui che ascolta le esigenze delle parti. Accennavo prima al termine essenziale. Beh, nel momento stesso che l'acquirente, ad esempio, manifesta dei dubbi sulla possibilità di avere entro un determinato tempo l'erogazione del mutuo, è lui che deve prevedere, mi viene in mente, ecco, una clausola che dice sì, il termine è questo, però salvo possibilità di prorogarlo nel momento stesso in cui non mi viene erogato il mutuo. E lo stesso il venditore, ad esempio sul rilascio dell'immobile nel momento del rogito, se il venditore ha comprato a sua volta una casa e non è sicuro di lasciare quella venduta entro quel termine, ecco che il mediatore deve prevedere delle clausole apposite in modo che tuteli anche il venditore nel caso che ci sia quel ritardo, ovviamente accettabile, 2-3 giorni. Ecco, chiaro che se si ritarda di mesi, allora scattano poi le penali. Allora, non dimentichiamoci che molto spesso, in casi molto frequenti, soprattutto nelle grandi città, quella dove abitiamo io e l'avvocato Cirla, per esempio a Milano, l'acquisto della casa a volte porta con sé una scelta di comunità dalla quale non possiamo sottrarci, che è la vita di condominio. E allora, quali sono le informazioni essenziali che dobbiamo conoscere sulla vita condominiale, oltre a quello che presumibilmente questo ci farà spendere ogni anno? Sentiamo intanto questa parte che abbiamo estratto dalla guida. La maggior parte degli acquisti di immobili, tra abitazione, ufficio, casa di vacanza o seconda casa, hanno a che fare con il fenomeno condominio, dove la volontà espressa dalla maggioranza obbliga anche coloro che non la condividono e dove bisogna abituarsi a sacrificare i pur tutelati interessi personali per adeguarsi alle regole comuni. Per l'acquirente è dunque importante informarsi, ancor prima di impegnarsi all'acquisto, sul contenuto del regolamento di condominio, al fine di conoscere gli eventuali limiti in esso previsti all'uso della singola unità immobiliare. è bene assumere precise informazioni sulla situazione complessiva del fabbricato e sull'esecuzione di eventuali interventi manutentivi, da deliberare o già deliberati oppure in corso di esecuzione ma non ancora pagati, e di specificare esattamente sin dal contratto preliminare a chi, tra venditore e acquirente, faranno carico le spese, così da evitare il sorgere di un futuro contenzioso giudiziario. Insomma, la parola condominio possibilmente deve comparire anche nel contratto preliminare, soprattutto se ci sono, avvocato Cirla, delle pendenze economiche delle quali qualcuno dovrà farsi carico. Certamente. La clausola classica da inserire nel contratto preliminare è che il venditore si impegna a saldare tutte le rate condominiali maturate fino al momento del rogito, sostanzialmente. La stessa clausola viene riportata nel rogito, nell'atto definitivo di trasferimento degli immobili. Ma attenzione, che non basta, nel senso che adesso intanto nel rogito notarile obbligatoriamente deve essere allegata una dichiarazione del venditore, che una liberatoria sostanzialmente data dall'amministratore del condominio al venditore, che dichiari che sono state pagate tutte le rate maturate fino a quel momento. Ma l'insidia dove sta? Sappiamo che il nuovo condomino sostanzialmente risponde in solido con il vecchio condomino venditore per tutte le spese maturate per l'anno in corso, il quale che acquista, per la gestione in corso e per la gestione precedente. I problemi cosa sorgono? Ad esempio, il caso, ahimè, che spesso capita, no? Devo dirlo, quando l'amministratore scappa con la cassa. Crea un ammanco che magari si riferisce a gestioni precedenti, mancano soldi del condominio. Chi risponde in questo caso? Certo, perché il venditore, lui, secondo lui, avrà pagato tutto quanto. Esattamente, il venditore dice: io ho la liberatoria dell'amministratore che mi dice che ho pagato tutte le mie belle rate condominiali, ma l'amministratore scappa, non è più un problema mio. Assolutamente sbagliato, perché il momento stesso, bisogna fare riferimento al momento in cui sorge il debito del condominio. Quando mancano soldi in cassa, evidentemente, se mancano perché l'amministratore ha prelevato soldi, ad esempio nella gestione in corso, quella precedente, ovvio che risponde il venditore, perché è solidale. Ma quando si verifica per questi ammanchi per gestioni precedenti, ecco che deve rispondere il buon venditore. Il condominio però immediatamente si rifà sul nuovo acquirente, perché è lui il condomino in quel momento, e quindi inizia una catena di praticamente di rincorsa tra il nuovo acquirente e il vecchio condomino per avere indietro questi soldi. Quindi anche sotto questo profilo qua l'attenzione deve salire a mille. Non basta la dichiarazione dell'amministratore che dice che tutto è pagato. Il suggerimento che do all'acquirente è di recarsi lui presso l'amministratore di condominio a conoscerlo di persona. Esatto, di controllare. Non che questo, come dire, assicuri sul fatto che poi non scappi con la cassa, però poi dopo almeno se ne va. Ecco, quindi una stretta di mano può in qualche maniera essere, come dire, indicativa della buona fede dell'amministratore di condominio, anche se poi non è detto. Avvocato Cirla, la famosa caparra di cui parlavamo prima, che va versata per cominciare a fermare intatto il processo di compravendita di un'abitazione, tra l'altro chi la tiene dopo? Dove finisce? Dunque, se tutto va bene, la caparra viene messa in contoprezzo, tantamente, verso X a caparra, poi magari verso degli acconti. Sì, ma è un assegno che tiene qualcuno a casa, dentro un cassetto. Dunque, va versato su un conto corrente di qualcuno. In prima battuta, quando interviene un mediatore, normalmente cosa succede? L'acquirente formula la sua proposta di acquisto al venditore, la proposta di acquisto viene consegnata a mani del mediatore con un assegno intestato al venditore, no? E sottolineo, deve essere intestato al venditore e non all'agenzia immobiliare, al mediatore, che il mediatore trattiene fino a quando il promittente venditore accetta la proposta. Nel momento stesso che accetta la proposta, ecco che il venditore incassa l'assegno lasciato a mani del mediatore e lo tiene in conto prezzo, sostanzialmente. Come dicevamo prima, se tutto va bene, perché se poi va male, invece, se lo tiene comunque a contratto risolto, e se va male per colpa del venditore, restituisce il doppio dell'importo. Questo conto prezzo praticamente raddoppia. L'ultima parte del nostro salvadanaio speciale estate, in questa puntata estiva riepiloghiamo un po' le regole basilari, anche se per la verità occorrerebbero almeno 20 trasmissioni consecutive, le regole basilari appunto per un acquisto consapevole dell'abitazione della nostra vita. Oggi ci sono tante norme da rispettare, dobbiamo fare tante attenzioni, oltre alla qualità dell'immobile magari non ci siamo soffermati a sufficienza. Avvocato Augusto Cirla stamattina con noi, segretario generale di Assocond, sulla necessità anche di farsi, magari facciamolo, delle raccomandazioni sulla necessità appunto di fare una visita preventiva anche in banca per capire se siamo nelle condizioni finanziarie di ottenere un mutuo e quindi di acquistare la casa dei nostri sogni. Sì, certo, è importante chiedere bene alla banca se è in grado di erogare il mutuo entro determinato periodo che a noi serve, perché le pratiche insomma sono magari sempre abbastanza complesse e quindi corriamo il rischio di arrivare alla data fissata per il rogito e poi la banca non ci eroga tutto o parte del mutuo. Quindi anche se abbiamo già, per un piccolo risparmio che avevamo, fornito una caparra e fermato l'immobile, magari addirittura essere arrivati alla firma e alla stipula del contratto preliminare, potrebbe esserci la sorpresa della banca. Non diamo mai per scontato nulla, pertanto attenzione. Sì. È meglio prevenire, mm-hmm. Quindi informarsi prima con le banche e sollecitarle affinché avere le garanzie più assolute che quel giorno verrà erogato il mutuo. Avvocato Cirla, i vizi di un immobile ed eventualmente, non lo so, il fatto che una trattativa possa saltare, perché questi vengono fuori ad un certo punto della nostra trattativa, magari quando proprio la riteniamo conclusa. Certo, è importante, perché se l'immobile è viziato, presenta dei vizi, ad esempio potrebbe essere i pavimenti dati per sani e poi non lo sono, insomma qualsiasi cosa che può capitare. Quali sono i rimedi che ha l'acquirente di fronte a questi inconvenienti? Due sostanzialmente alternative: o chiedere la riduzione del prezzo e quindi poi mettersi a posto lui i vizi, oppure addirittura, a secondo della gravità che possono essere questi vizi, risolvere il contratto. Direi che la seconda ipotesi è quella più denegata, quella da lasciare per ultima. Perché? Perché abbiamo detto nel corso della trasmissione che uno si porta la decisione di comprare la casa, non certo può a un certo punto risolvere poi il contratto e rimanere senza casa solo per il fatto di avere magari il doppio della caparra indietro. Le soluzioni più consigliabili sono quelle effettivamente di chiedere la riduzione del prezzo. Quindi se l'immobile, ad esempio, una per tutte, manca la certificazione energetica invece che è stata data, chiaro che il rogito potrebbe essere fermato, però il venditore potrebbe dire: benissimo, troviamo un accordo che la certificazione viene fatta a spese cura dell'acquirente, e questo caso è un tipo di riduzione del prezzo. Oppure ad esempio anche sulla metratura, quante volte ci viene data un immobile per X metri quadri e noi facciamo conto su X metri quadri, anche perché poi normalmente l'immobile viene venduto a un prezzo a metro quadro. Mm-hmm. Insomma, se la variazione della metratura è sufficientemente rilevante, ma parlo anche di quei 5, 6, 7 metri quadri in meno che possono avere un'incidenza sul prezzo, ecco che anche in questo caso scatta la riduzione del prezzo che l'acquirente ha diritto di ottenere. C'è una cosa che prima, parlando della vita di condominio, forse non abbiamo ricordato, cioè noi ci siamo soffermati soprattutto sulle possibili pendenze economiche, magari un condomino o che non era a posto, alla pari con il versamento delle rate condominiali, dei mesi pregressi, quando si avvia appunto a cedere l'immobile, a vendere il suo immobile, oppure il caso dell'amministratore del condominio che scappa con la cassa e quindi su chi ricade questo problema. C'è un'altra questione anche magari che vale la pena forse ricordare. Ammettiamo che chi vende l'abitazione abbia stabilito e abbia approvato in assemblea di condominio magari il rifacimento della facciata della sua casa, per cui si parla di spese che la persona che entra, quindi il possibile acquirente, dovrà sostenere, sarà lui appunto a dover sostenere queste spese. Forse anche su questi aspetti bisogna, certo, essere molto chiari sin dall'inizio, se è si importante. Sono approvati dei lavori straordinari che si faranno in futuro. Sono queste proprio le problematiche, proprio in ordine ai lavori straordinari. C'è stata una giurisprudenza oscillante su questo fenomeno, nel senso che chi diceva che valeva il momento della delibera assembleare, chi diceva invece che valeva invece il momento in cui venivano eseguite le opere. È intervenuta recentemente una sentenza importante della Cassazione che proprio stabilisce una differente imputazione a seconda della natura delle opere e dice: se le spese sono ordinarie, spese ordinarie vanno sempre a carico di colui che è condomino nel momento in cui è sostenuta la spesa. Se si tratta invece di opere straordinarie, ecco che vale per capire chi deve pagare le spese inerenti è il momento in cui sono deliberate le spese. Quindi la data della delibera assume rilievo per le spese straordinarie, non l'assume per le spese ordinarie. Allora, siamo al punto di poter dire andiamo dal notaio, avvocato Cirlo, oppure ci manca ancora qualche altra questione da ricordare che deve essere risolta prima di andare davanti al notaio? Forse non abbiamo dato qualche dettaglio in più rispetto alla necessità di presentare la documentazione che certifica la qualità energetica dell'abitazione. Questo è stato un settore peraltro che è stato oggetto di grande proliferazione legislativa negli ultimi anni. Direi proprio di sì, perché la certificazione energetica è entrata direi di prepotenza negli immobili degli italiani. Cos'è innanzitutto la certificazione energetica? È un certificato che sostanzialmente va ad individuare il consumo di energia che c'è in ogni appartamento con una normale utenza, un normale consumo. Come energia intendo riscaldamento, energia elettrica e quant'altro. Dispersione di calore, risparmio energetico, è una parola che è entrata ormai nel gergo comune, che deve entrare nella mentalità di tutti i cittadini, primo tra tutti però i condomini. E il legislatore ne ha fatto un buon uso di questa certificazione energetica. Perché? Perché ha imposto addirittura pena di invalidità dell'atto in un primo momento, poi si è attenuato un po', l'obbligo di portare la certificazione energetica, esibirla se non altro all'acquirente e darne atto nell'atto conclusivo, nel rogito. Potrebbe essere anche una certificazione energetica, come dicevo prima, magari posta a carico dell'acquirente, ma ovviamente va a influire poi sul prezzo. Direi che in linea di massima è un onere che ha il venditore di consegnare al notaio la certificazione energetica affinché il notaio stesso ne faccia menzione nell'atto di compravendita. Certo che negli ultimi anni, avvocato Cirla, anche il ruolo del notaio, che è sempre sicuramente stato fondamentale nella chiusura precisa delle azioni di compravendita, degli atti di compravendita, comunque le sue responsabilità si sono ampliate un po', ritengo. Certamente, perché il notaio, dicevo all'inizio che devono essere riportati tutti i dati catastali nell'immobile, nel rogito. È un suo dovere accertarsene sia prima che dopo. Mi spiego, prima del rogito, nel momento della fase diciamo del contratto preliminare, se ad esempio fatto davanti al notaio, è ovvio che spetta a lui a dare identificare esattamente l'immobile, ancor più in sede di trasferimento dell'atto finale. È una cosa abbastanza normale, cioè quando viene fatto un rogito normalmente si chiede al notaio di identificare l'immobile con i dati catastali. Ebbene, non sempre ciò avviene in modo corretto, non perché magari sbagli il notaio, ma perché molto spesso capita che addirittura il catasto non sia esattamente aggiornato secondo le ultime rilevanze. Quindi cosa succede? Ad esempio può capitare che il notaio non si accorga che un determinato immobile è gravato di un peso, o di un'ipoteca, di una procedura esecutiva, e qui in questo caso scatta poi la responsabilità del notaio. Nel momento che non certifica e non avverte l'acquirente di questo peso che c'è sull'immobile, il notaio ne risponde. Avvocato, la nostra trasmissione si sta quasi chiudendo. Visto che stiamo parlando del notaio, allora chiudiamo proprio con il ruolo di questa figura, ma soprattutto oltre che delle responsabilità che ha, anche del costo che il notaio ha. Perché le faccio questa osservazione? Perché molti ascoltatori quando scoprono l'onere che devono sostenere davanti al notaio ritengono che quella sia sempre tutta ed esclusivamente parcella a carico del professionista. Esatto. E invece ci si dimentica molto spesso che praticamente l'80% di tutto il denaro che va versato al notaio finisce invece in tasse, come dire, questioni burocratiche da sistemare, per cui la parcella è davvero, poi non dico che sia bassa, questo è un altro problema, ma comunque è una minima parte di quello che noi diamo a questo professionista per definire l'atto di compravendita. Esatto, perché l'importo sostanzialmente che viene versato al notaio, gran parte sono le spese di registrazione dell'atto. L'ipotesi su 100 euro che vengono versati al notaio, diciamo che al notaio ne rimangono in tasca 30, sì e no, è una minima parte che rimane. Però è ovvio che l'acquirente spesso si spaventa, no? Quanto costa il notaio? Non è vero, lo diceva giustamente lei prima, la parcella del notaio è solo una minima parte dell'importo che viene versato, il resto sono tasse, contributi e tributi che lo Stato giustamente chiede nel momento stesso che viene trasferito l'immobile. Avvocato Cirlo, la nostra trasmissione è terminata, speriamo di non aver scoraggiato i nostri ascoltatori dalla scelta dell'abitazione dei propri sogni, piuttosto di averli sensibilizzati di più, resi più responsabili e consapevoli invece nella scelta della casa, ma soprattutto nel rispettare appunto tutti i passi corretti che vanno fatti. Grazie per essere stato con noi e buone vacanze. Grazie a voi. A presto, grazie all'avvocato Augusto Cirla. Noi ci risentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.